Nella storia che non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere, e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce, altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'Armata Rossa c'è la maschera di un altro colore, c'è chi maschera un altro colore. E sulla piana che solca l'Ungheria corre il treno di questa mia vita, ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai. Non sai il dolore che mi dai. Tu che mi dici, lascia stare. Sai che il tempo è un amico infedele. E come vedi tutto cambia. E l'amore è fatto solo di poesia. E l'amore è fatto solo di poesia. Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Per la gloria dei moderni dittatori e scorre il sangue di un popolo sovrano, e tu soldato americano, con che pane questa sera mangerai, di che il pane questa sera mangerai. Sui tamburi della propaganda, il regime è immola ai suoi ideali, tanto una bomba quando esplode, fa gli uomini davvero tutti uguali, fa gli uomini davvero tutti uguali. Per il fiore della mia generazione ti ho aspettata per una vita, ma tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella anarchia? Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze, di questo sogno che chiamiamo libertà.